cui maledettamente tendo. Innevate, spiate, illuminate, desiderate. Verde brillante che soffoca il vento, fredda presa che spezza e spazza. Ricordi, emozione, sole, musica e una nebbia gelida ma profumata. Le nuvole spinte via da quel vento, ombreggia sul verde, cupo di quelle coppe, il verde nei tuoi occhi a me sconosciuti scompare.